Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Ecco un estratto degli appunti che scrissi in quell'epoca. Abbiamo finalmente perso di vista Coringa. Credo di non essere rimasto da basso complessivamente per 2 ore da molti giorni. Rimango in coperta, naturalmente, notte e giorno. E le notti e i giorni si susseguono sopra di noi, lunghi o corti, chi può dire. Ogni senso del tempo è scomparso nella monotonia dell'attesa, nella speranza e nel desiderio, che è uno soltanto. Portare la nave a sud. Portare la nave a sud. Ne consegue una curiosa meccanicità. Il sole si alza e poi cala. La notte si stende sul nostro capo come se qualcuno di là dall'orizzonte girasse una manovella. È la cosa più meschina, più inutile. Ed attraverso questa miserabile commedia continuo ad andare su e giù, in coperta. Quante miglia avrò percorso sul casseretto di questa nave? Peregrinazione ostinata, fatta di pura irrequietezza, con l'unico diversivo di brevi scappate da basso a vedere come sta il signor Burns. Forse è un'illusione, ma mi sembra si vada irrobustendo da un giorno all'altro. Non dice granché, e a dire il vero, la situazione non si presta a oziosi commenti. È una cosa che rilevo anche negli uomini che vedo lavorare o riposarsi in coperta. Non parlano tra loro. Se esiste un orecchio invisibile teso a cogliere i sussurri della terra, credo proprio che non troverà posto più silenzioso di questo. No, il signor Burns non ha granché da dirmi. Sta seduto sulla cuccetta, con la barba tagliata, i baffi fiammeggianti e con un'aria di silenziosa determinazione sul volto terreo. So da Ransom che egli divora tutto ciò che gli si porta, fino all'ultima briciola, ma evidentemente dorme pochissimo. Persino di notte, quando vado a basso a riempire la pipa, noto che, pur sonnecchiando supino, continua ad avere un aspetto molto deciso. Dall'occhiata intralice che mi dà, se è sveglio, si direbbe che si secchi ad essere interrotto nel fare a memoria un'ardua operazione. Poi, quando vengo fuori in coperta, il mio occhio scorge l'ordinata distesa delle stelle, senza nubi, infinitamente scoraggianti. Sono tutti lì. Stelle, sole, giorno, notte, spazio, alto mare. Il formidabile lavoro della creazione, in cui l'umanità sembra essere capitata senza invito, oppure attirata in trappola. Tal quale io sono stato attirato nella trappola di questo comando spaventoso, di questo comando visitato dalla morte. Di notte, sulla nave, l'unico punto luminoso era dato dalle luci della chiesuola, che illuminavano di sotto in su le facce degli uomini alternatisi al timone. A parte ciò, eravamo perduti nel buio. Io avanti e indietro sul casseretto e gli uomini stesi in giro per i ponti. Erano così sfiniti che non si potevano osservare i turni di guardia. Quelli che riuscivano a camminare restavano in servizio in continuazione, stesi nell'oscurità della coperta, finché si alzava la mia voce a dare un ordine, rimettendoli in piedi sulle gambe indebolite. Gruppetto dal passo malfermo che si portava paziente da un punto all'altro della nave, senza che in mezzo a loro si udisse un mormorio, un bisbiglio. Ed ogni volta che dovevo dare un ordine, sentivo una fitta di rimorso e di pietà. Poi, verso le 4 del mattino, si metteva a brillare un lume all'avanti, in cucina. Indenne, sereno, alacre, l'immancabile Ransom, dal cuore infermo, preparava il caffè per gli uomini. Giungeva tosto portandomene una tazza sul casseretto, ed era in quel momento che io mi concedevo un paio d'ore di vero sonno, buttato sulla mia sedia a sdraio. Senza dubbio ogni tanto devo aver schiacciato qualche sonnellino per puro esaurimento stando appoggiato alla battagliola, ma sinceramente non me ne accorgevo, se non sotto la forma di convulsi sussulti che parevano cogliermi persino nell'andare avanti e indietro. Comunque, dalle 5 circa fino alle 7 dormivo apertamente sotto l'impallidire delle stelle. Dicevo al timoniere: «Se c'è bisogno, chiamami», e mi buttavo su quella sedia e chiudevo gli occhi, convinto che per me non c'era più sonno sulla terra. E poi non sapevo più nulla finché a un certo punto, tra le 7 e le 8, mi sentivo toccare la spalla e vedevo su di me la faccia di Ransom col suo lieve sorriso pensoso ed i suoi occhi grigi, amichevoli, come se fossero teneramente divertiti dai miei sonni. A volte il secondo ufficiale veniva su a darmi il cambio all'ora del primo caffè, ma la cosa non aveva davvero importanza. In genere avevamo calma piatta, o bave di vento così mutevoli e fugaci che davvero non valeva la pena di toccare i bracci. Se il vento rinforzava un poco, potevo contare sul grido di avvertimento del timoniere: «Tutto a collo, capitano!» che come uno squillo di tromba mi faceva fare un balzo sul ponte. Erano parole che, mi pareva, mi avrebbero fatto balzare fuori dal sonno eterno. Ma ciò non accadeva di frequente. Non ho più incontrato da allora albe così prive di brezza. E se mi capitava di vedere lì il secondo ufficiale, in genere era senza febbre un giorno su 3, lo trovavo seduto sullo sterigio in stato di semi-incoscienza, per così dire, con lo sguardo imbambolato fisso su qualche oggetto vicino, un cavo, una galloccia, una caviglia, un golfare. Quel giovane era piuttosto fastidioso. Restava infantile anche nella sofferenza. Sembrava completamente istupidito. E quando un nuovo attacco di febbre lo rimandava da basso, ci accorgevamo poi che spariva dalla sua cabina. Quando ciò accadde per la prima volta, Ransom e io ne fummo assai impensieriti. Cominciammo a cercarlo con calma ed alla fine Ransom lo scoprì raggomitolato nel deposito delle vele, che si apriva sull'andito con una porta scorrevole. Alle rimostranze fatte gli borbottò imbronciato: «Lì dentro fa fresco». Non era vero. Lì dentro faceva soltanto buio. I difetti fondamentali del suo viso non miglioravano sotto il colorito uniformemente livido, al contrario di quanto accadeva a molti altri dell'equipaggio. I guasti della malattia parevano idealizzare il carattere complessivo delle fisionomie, facendo risaltare in taluni un'insospettabile nobiltà, in altri un sentimento di forza e in un solo caso rendendo evidente un aspetto essenzialmente comico. Si trattava di un uomo basso di statura, rosso di capelli, svelto, con un mento e un naso alla Pulcinella, chiamato dai compagni il francesino. Non so perché, forse era francese, ma non gli ho mai sentito pronunciare una sola parola in quella lingua. Era confortante vederlo arrivare a poppa per mettersi alla ruota. i calzoni di tela grezza turchina rimboccati l'uno un po' più su dell'altro sui polpacci, la camicia a scacchi pulita, il berretto bianco di tela, evidentemente opera delle sue mani, gli davano nell'insieme una particolare eleganza, mentre la persistente vivacità dell'andatura, anche quando, povero diavolo, non poteva fare a meno di barcollare, dimostrava la saldezza del suo spirito. C'era anche un marinaio che si chiamava Gambril. Era il solo individuo brizzolato della nave. Aveva un volto austero. Ma pur ricordando tutti quei volti che si assottigliavano tragicamente sotto i miei occhi, i nomi sono quasi tutti scomparsi dalla mia memoria. Le parole che ci scambiavamo erano rade e puerili in paragone alla situazione. Dovevo farmi forza per guardarli in faccia. Mi attendevo di incontrare sguardi di rimprovero, ma non ve n'erano. Era già dura abbastanza da sopportare l'espressione di sofferenza che avevano negli occhi. Ma questa non potevano impedirsela. A parte ciò, mi chiedo se era la tempra delle loro anime o la simpatia della loro immaginazione a renderli così meravigliosi, così meritevoli del mio imperituro rispetto. Quanto a me, non avevo né l'animo altamente temprato, né l'immaginazione debitamente controllata. A momenti mi pareva non solo di impazzire, ma di essere già impazzito, tanto di non osare di aprire le labbra per timore di tradirmi con un urlo insensato. Per fortuna avevo soltanto da dare ordini, e un ordine esercita un'influenza che rinsalda chi lo deve dare. Inoltre in me il marinaio, l'ufficiale di guardia, serbava ragione a sufficienza. Ero come un falegname pazzo che fa una cassa. Anche se fosse convinto di essere il re di Gerusalemme, la cassa da lui fatta rimarrà sempre una cassa ragionevole. Temevo solo che senza volere mi sfuggisse un grido acuto a spezzare il mio equilibrio. Per fortuna, ancora una volta, non occorreva alzare la voce. Il gran silenzio che covava sul mondo pareva reagire al più lieve rumore come una volta acustica. Il tono discorsivo bastava quasi a far giungere una parola da un capo all'altro della nave. Il terribile, però, stava nel fatto che la mia voce era la sola che udivo, specialmente di notte, e che giava molto solitaria tra le superfici immobili delle vele. Il signor Burns, sempre restando a letto con quella sua aria di segreta determinazione, trovava da brontolare per molte cose. I nostri colloqui non duravano più di 5 minuti, ma erano molto frequenti. Scendevo continuamente da basso a prendere del fuoco, anche se in quel periodo non consumavo molto tabacco. Mi si spegneva sempre la pipa, perché in verità la mia mente non aveva calma sufficiente nemmeno per consentirmi di fare una pipata come si deve. Per buona parte delle 24 ore, stando in coperta, avrei potuto benissimo continuare ad accendere tutti i fiammiferi che volevo e tenerli accesi fino a quando la fiamma mi bruciasse le dita. E invece facevo sempre una corsa da basso. Era un cambiamento, era l'unica interruzione nella tensione incessante. E naturalmente il signor Burns, attraverso la porta aperta, ogni volta mi vedeva andare e venire. Con le ginocchia tirate fin sotto il mento e sopra queste lo sguardo fisso degli occhi verdastri, aveva un aspetto sinistro che mi attraeva assai poco, tanto più conoscendo le stramberie che gli passavano per la testa. Pure di quando in quando non potevo esimermi dal parlargli e un giorno si lagnò che la nave era troppo silenziosa. Per ore ed ore, disse, stava lì steso senza udire un solo rumore fino a non poter più resistere. Quando Ransom si trova all'avanti nella sua cucina, c'è un tale silenzio da far pensare che a bordo siano morti tutti, brontolò. L'unica voce che odo in realtà è la vostra, capitano, e non basta a rallegrarmi. Che ne è degli uomini? Non ne rimane neanche uno capace di cantare durante le manovre? Neanche uno, signor Burns, dissi. A bordo di questa nave non c'è fiato da sprecare in simili cose. Vi rendete conto che a volte non posso riunire più di 3 uomini per una qualsiasi cosa? Chiese rapido ma timoroso. Nessun morto ancora, capitano. No, non bisogna, dichiarò con forza il signor Burns. Non dobbiamo permetterglielo. Se lui riesce ad agguantarne uno, li agguanta tutti. Nel sentire ciò, protestai con ira. Credo anzi di aver bestemmiato, tanto mi disturbavano quelle parole. Esse colpivano quel po' di sangue freddo che mi rimaneva. Nella mia interminabile veglia in faccia al nemico ero già stato abbastanza ossessionato da immagini sinistre. Mi erano apparse visioni di una nave alla deriva nelle bonacce, che sbandava sotto brezze leggere, con tutto l'equipaggio morente sui ponti. Cose del genere sono accadute realmente. Il signor Burns oppose al mio scatto un ermetico silenzio. «Sentite», dissi, «voi stesso non credete a ciò che dite. Non potete crederci. È impossibile. Ho il diritto di non aspettarmi da voi cose del genere. La mia posizione è già abbastanza difficile senza dovermi preoccupare delle vostre sciocche fantasticherie». Rimase impassibile. Dato il modo in cui la luce gli spioveva sul cranio, non potei essere certo se sorrise leggermente oppure no. Cambiai tono. «Sentite», dissi, «la situazione sta diventando così disperata che, non riuscendo a fare rotta per sud, per un momento ho pensato se non dovevo governare per ovest e tentare di raggiungere la rotta del postale. Ne potremmo sempre avere un po' di chinino. Che cosa ne pensate?» Diede un grido. «No, no, no, non fatelo, capitano. Non dovete cedere neanche per un attimo di fronte a quel vecchio furfante. Se no, prenderà il sopravvento su di noi». Lo lasciai. Era insopportabile. Il suo era un vero caso di ossessione. La sua protesta, tuttavia, aveva una reale consistenza. Infatti, la mia idea di far rotta per ovest nell'eventualità di avvistare un problematico piroscafo non reggeva a un esame ponderato. Là dove eravamo, almeno di quando in quando, avevamo vento sufficiente ad andare faticosamente verso sud, almeno sufficiente a tenere desta la speranza. Supponiamo invece che io avessi usato quelle capricciose raffiche di vento per navigare lontano verso ovest, in paraggi ove non spirasse neanche una bava di vento per giorni e giorni di fila. Che cosa sarebbe accaduto? Forse la mia terrificante visione di una nave in deriva con un equipaggio di morti sarebbe diventata una realtà che dei marinai inorriditi avrebbero scoperto solo molte settimane dopo. Quel pomeriggio Ransom mi portò una tazza di tè e mentre aspettava lì col vassoio in mano commentò con un appropriatissimo tono di simpatia: «State reggendo bene, capitano». «Sì», dissi, «noi due a quanto pare siamo stati dimenticati». «Dimenticati, capitano?» «Sì, dal demonio della febbre che si è imbarcato su questa nave», dissi. Ransom mi diede una delle sue rapide occhiate, gradevoli, intelligenti, e se ne andò col vassoio. Mi resi conto di aver parlato un po' alla maniera del signor Burns. La cosa mi seccò. Già spesse volte, nei momenti più neri, mi ero lasciato andare fino ad assumere contro le nostre difficoltà un atteggiamento che sarebbe stato più adatto nei confronti di un nemico vivo. Sì, il demonio della febbre non aveva ancora messo la mano su Ransom o su me, ma poteva farlo da un momento all'altro. Era un pensiero da combattere, da tener lontano a ogni costo. La sola ipotesi che Ransom, il vigile guardiano di quella nave, venisse stroncato era insopportabile. E che cosa ne sarebbe stato della mia nave se fossi stato messo fuori combattimento io? Col signor Burns troppo debole per stare in piedi senza tenersi stretto alla sua cuccetta e col secondo ufficiale ridotto ad uno stato di perenne imbecillità. Impossibile immaginarlo. O meglio, troppo facile. Ero solo sul casseretto. Poiché la nave non aveva abbrivio sufficiente per governare, avevo mandato via il timoniere a sedersi o sdraiarsi da qualche parte all'ombra. Le forze degli uomini erano tanto esaurite che occorreva evitare di chiedere qualsiasi cosa che non fosse strettamente necessaria. Si trattava dell'austero Gambril dalla barba brizzolata. Si allontanò con discreta prontezza, ma era tanto indebolito da ripetuti accessi di febbre, poveretto, che per scendere la scala del casseretto dovette mettersi di fianco e tenersi con entrambi le mani al tienti bene di Ottone. Faceva semplicemente pena. Eppure non stava né meglio né peggio della mezza dozzina di misere vittime che potevo riunire in coperta.